in diretta dallo studio mobile del GL Como, va ora in onda Opencast Alpha. My home is not a place to be. I hope you'll finally agree. But sometimes you can find there some peace of your mind, yeah. But my home is not a place to be. My heart doesn't tell you what I feel. The mirror is blind in which you see. But sometimes there's some light to guide you through the night. But my heart doesn't tell you what I feel. To survive, to be strong, you have to get it on your own. But never mind, it was great. We had a real good time. Alfa, puntata numero 32, una puntata niente po' di meno, direi. Sì, sì, una puntata estremamente spumeggiante dopo le ultime due coi botti. Siamo arrivati allo spumante. Sì, beh, chiaro. Cioè, stiamo facendo Capodanno in anticipo. Esatto, noi ci portiamo avanti. No, io vorrevo solo ricordarvi che il pezzo che abbiamo ascoltato era Real Good Time dei The Dots. Ma è veramente un buon tempo, diciamo. Sì, sì, sì. Da un album bellissimo dal titolo Fashion for the Dressed and Naked. Cioè, la moda per i vestiti e i nudi, fondamentalmente. Diciamo che anche questa serata abbiamo scelto la musica così come veniva. Ma no, diciamo più a sensazione. A sensazione. A pelle, sì, diciamo. A pelle, giustamente. Per restare in tema. Allora, siamo qui nello studio mobile. Siamo nello studio l'abbiamo mobile. Abbiamo detto. Vogliamo spiegare anche perché studio mobile? Perché si muove. No, principalmente per non pagare l'IMU. Ah, giusto, bravo. Io ne so. Ne sai tantissime. Tengo dei bilanci. Bravo. Allora, si sta avvicinando il Natale. Ragazzi, cosa facciamo? Festeggiamo. No. Cosa facciamo come regalo? Ah, io una mezza idea ce l'avrei. Sei sicuro? Sì. Perché sai che i marmocchi vogliono sempre l'ultimo gadget. I marmocchi si attaccano, decido io che cosa fare di regalo, scusa. Ma poi i marmocchi te la fanno pagare. Me la fanno pagare? Sì. Va bene. È cara. E allora che cosa proponi, scusami? Ma io ho notato, viaggiando sul www, che sono nati una miriade di tablet per marmocchi. Tanto ormai costano una cialata. Sì, diciamo che con qualcosina più di 100 euro si riescono a comprare. Ma la cosa preoccupante è che veramente ne stanno uscendo una caterba a forma di animale, a forma dell'omino di Android, perché la maggior parte hanno tutti sul sistema operativo del nostro mostriciattolo verde. Giustamente. E il problema è che voglio vedere quando sotto l'albero il bambino non troverà il tablet quanto vi picchierà o vi, non lo so, brucerà il vostro, per esempio. Perché, cari genitori, vi ricordiamo che ormai sono andati via come il pane. Sì, ormai non si trova più nulla. Ormai non si trova più niente. Però, caro, ti farò giocare con il mio iPad nuovo da 800 euro. Anche no. Però vuoi mettere quella musichetta? Tin, tin, comunque tin. Ciò mi ricorda la storia di quella ragazzina, quella bambina, che prese in mano una foto reale, ha cercato di girarla col dito e se n'è andata via dicendo che è rotto. È rotto. Storia vera. Però mi preoccupa come cosa, perché io mi immagino questi bambini che cercheranno di installare la peggio app su questo ma coso. No, poi si sono, vabbè, ma immagino che se allora, sono per bambini siano in una certa maniera. E nel senso, dipende da cosa porti a casa, perché ci sono delle versioni che hanno le app a mo' di schedina. Cioè che oltre a prendere il tablet, poi ti devi comprare i giochini. Ah, giusto. Beh, mi sembra giusto. E i giochini sono a schedina. È proprio chiaro. Schedina fisica. Non so se sia una memory o che cosa. Però è proprio una schedina. Diciamo un po' il concetto del Game Boy. Game Boy, esattamente. Esatto. E la cosa che mi preoccupa è questi bambini che passeranno, non so, almeno fino a febbraio, a San Valentino, a cercare su internet le guide per ruttare il certo, tablet. C'ha 6 anni e va su internet col tablet. Col tablet. Su come ruttare il tablet cinese che c'è in mano, che probabilmente sarà già ruttato. Perché... Esatto, ma la cosa brutta è, io me lo immagino, wireless che gli brucia il cervello. Sei proprio veramente violento, sei. Ma non è... Cioè, ma si potrà... Allora, ho sentito... Oggi che diciamo la nostra generazione sarà la prima generazione in cui i figli vivranno peggio dei genitori. Questo sì. È quello che hanno detto. Sì, vabbè, ma non è per il wireless del no, ma io immagino i nostri figli. Guarda, lascia perdere. I tuoi proprio mi spiace, ma non vorrei neanche vederli. Che carogna che sei. Un po'. Vabbè, l'alternativa a questo tablet? Cioè, non, tu non vuoi comprare il tablet. Io non voglio comprare il tablet. Ma questo bambino cosa gli fai fare? Gli compro del Lego piuttosto. Come del Lego? No, no, no, no, è pericolosissimo, lo possono mangiare. Ma il duplo, quello grosso. Allora così te lo tira in testa quando vede che non gli hai preso il tablet. Va bene, eh? No. Va benissimo. Cioè, voglio dire, dovrebbero anche a un certo punto... Cioè, voglio dire, sono ragazzini, decidono io cosa regalargli. Vabbè, ma se tu avessi un figlio di 7 anni... Guarda, se avessi un figlio di 7 anni, minimo gli faccio installare Fedora 18. Ma come gli fai installare Fedora 18? Pare che sono in grado. Ma non è illegale, nel senso, non c'è un'associazione in difesa dei bambini, principalmente. Guarda, non so se questa cosa può richiamare o meno queste associazioni, ma è stato fatto un test, una prova. Mamma mia. E hanno fatto provare ragazzino di 7 anni a installare Fedora 18 e installer è talmente semplice e intuitivo che fondamentalmente si sta a fare clic avanti. Ma io mi chiedo, ma poi hanno tirato via la patria potestà al genitore che ha permesso l'utilizzo del bambino? Non lo so, però l'uso capito. Secondo me invece è una cosa importante da fare, perché un ragazzino si rende conto che sul computer può metterci le mani anche oltre andare su Facebook e usare le applicazioni sulla schedina, quelle cose lì. Quelle del tablet. Esattamente. Sono belle perché sono gommosi questi tablet. Vabbè, andiamo avanti. Stavo pensando a cosa, no, non dirlo. A cosa regalarmi. Ecco, lo sapevo. Allora... Intanto che tu pensi cosa regalarti, ci penso. Io ti dedico questo pezzo. C'ho paura. Eh? Che cos'è? Il pezzo è dei Juanitos. Un gruppo che a te piace. Lo so. Il brano si intitola Supernatural. Yeah. E già sai. Senti come sale. Senti. Sale. Senti come pompa. Well, if you feel you like it. Well, if you feel like it. Well, gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. it's okay to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, I got a rolling pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. Supernatural, I think I got it off the writer sitting down by the rhythm review. Supernatural. Well, early in the morning I am giving you the warning. Don't you step on my new sweat shoes. Hey, little, little, gonna play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Well, if you feel supernatural, well, if you feel supernatural, well, if you feel supernatural, well, if you feel supernatural, supernatural, supernatural, supernatural, supernatural, supernatural. Supernatural, se non l'avevate capito, eh? No, giusto per ribadire il concetto. Un altro fantastico brano che potete trovare su... Proprio, nel senso, con tutti quelli che ci sono, proprio questo, no? È un gran brano. Cioè, uno ha milioni di brani da poter ascoltare. Non hai ballato. Ascolta tutto, questo. Tu eri qua che ballavi tutto il tempo. Ho capito, ma sai che i miei gusti non fanno testo. Vabbè. Super... Supernatural. Yeah. Il tuo brano preferito sarà la hit di questo inverno. Così, così ormai... fra palle di neve. Esatto. Durante le feste natalizie, la nonna, spumante, dopo il panettone, ballerà sulle note di Supernatural. Dopo lo spumante, credo. Esatto. Dopo il panettone. Dopo lo spumante, sì. Yeah. Vi ricordo comunque, stavo dicendo, che è un pezzo che trovate su Giamendo, su Giamendo, sulla fornitissima... sul fornitissimo catalogo di canzoni e brani in Creative Commons di Giamendo, e sul nostro sito www.gl-como.it troverete i link a quasi tutti i brani che passiamo. Diciamo quasi. Non sempre. A tal proposito vorrei salutare il nostro ascoltatore che ci ha commentato. Ciao ascoltatore, sulla puntata precedente. E volevamo dire che nei prossimi giorni verrà inserito, o è già stato inserito? E no, verrà. Verrà inserito il link a quello da te richiesto. Il che fondamentalmente si lamentava, diciamo, si lamentava del fatto che mancavano i link. mica quelle, da poco, eh. Esatto, a quelle bellissime musiche, diciamo un po' così, epiche, che abbiamo usato nella puntata precedente, che purtroppo non, quando abbiamo scritto il post non avevamo sotto mano i link, ma lo aggiorneremo appena possibile. Comunque anche questi brani sono tutti raggiungibili su Jamendo, magari tutto cercando Creative Commons, soundtrack o roba così. Sì, ce n'è di ogni. Ce n'è di ogni, per tutti i gusti e per tutte le tasche, direi anche. Fate fare il lavoro sporco a noi, voi godetevi la musica. Voi state sul pullman, eh? Voi rilassatevi. Andando, che so, al lavoro la mattina. Perché avete rubato un pullman? Esatto. Abitate, poi voglio dire, cioè, dietro il lavoro, nel senso, perché rubate il pullman? Ma soprattutto dove lo parcheggi? Ecco. Allora, detto questo, torniamo un attimo in traccia. Qual è la notizia, diciamo, bomba. Dopo ti metto anche bomba, se vuoi. Bomba. Tegra 2. Tegra 2, allora, cosa succede? Qualche settimana fa... È vecchio. Chi? Tegra 2. Sì, però resta sempre comunque interessante. Sì. Resta interessante la notizia che... Cos'è Tegra 2? Cos'è Tegra 2? Ma che cacchio di domande mi fai? È un chip e chop. È un chip e chop. ARM. Non so cosa... Non capisco dove vuoi arrivare. Chip e chop ARM o no? Sì. Ok, fatto da? Nvidia. Che funziona su? Android. No, funziona. Funziona. Su una scheda. Su una scheda perforata. No? Non ti capisco stasera. Perché mi dà retta? Di solito non mi danno così retta. Comunque, cosa succede? Qualche settimana fa Nvidia ha rilasciato in open source i driver 2D. 2D, per, sì. Nvidia Tegra. E Tegra in questi 2, giorni, sì, ha rilasciato la, diciamo, l'integrazione libreria con libDRM. Non stiamo parlando dei diritti digitali, bensì col Direct Rendering. Questa cosa, benché non faccia niente di al momento... Assolutamente nulla. Esatto, però permetterà di avere l'accelerazione 2D inizialmente sui chipset Tegra 2, che non è da buttare via. Che non è da buttare via, soprattutto... Stiamo parlando del kernel di Linux, per cui driver open source nel kernel di Linux. Dal 3.8. Lamentati. No, la cosa bella è che... Allora, abbiamo fatto dei test... Le altre volte hai fatto dei test? Sì, abbiamo fatto dei test. Abbiamo scoperto che siamo negativi alla maggior parte dei test. Meno fra male. Cui anche quello dei neuroni attivi. Sì. Ok? Comunque abbiamo fatto dei test con questo mostriciattolo verde e le cose che si possono fare con Linux, le varie versioni di Linux che si possono utilizzare con queste piccole app che in realtà montano in loop questi file immagini. Oh yes. E poi il problema grosso è come cavolo ti colleghi alla tua distribuzione, perché la distribuzione gira ma non c'è un server X. E no, allora hanno fatto questa applicazione che in realtà porta X senza le librerie e le porta su Android. Purtroppo, diciamo che sì, qualcosina gira, però non è possibile utilizzarlo. Allora non si è usa abbastanza avanzato. Comunque si usa un server X. Esatto, si usa una connessione, diciamo un VNC. Ma mi ricordo qualche anno fa esisteva un progetto di un server X basilare scritto in Java che funzionava anche come applet all'interno del browser. È un server X. E adesso vedremo, perché speriamo che questo rilascio di codice dia una mano anche a questi progetti. Speriamo. E il problema grosso è che in questo mondo ogni chip, ogni casa produttrice si c'è fa il chip suo. Esatto, ognuno si fa i chip suoi. Esatto. Hai capito? È così. Vabbè. E noi cosa dobbiamo farne? Soffriremo. Soffriremo, ma soffriremo veramente tanto. Tantissimissimo. Però ci divertiamo, perché siamo come dei bambini che ricevono un tablet a Natale. Ah no, questa l'abbiamo già detta. Vai avanti col prossimo. Vado avanti col prossimo. Allora parliamo di cose serissime. Tipo? Tipo, questa l'abbiamo già detta. Questa? Ah, cos'è giusto che era questo? Torniamo alla storia dell'accelerazione. A bomba. Esatto, sempre nel campo della grafica e dell'accelerazione, in questo caso 3D. Grafica spinta utilizzata per fare cose serie. Grafica spinta. C'è un evento in particolare che in questo periodo sta, diciamo, riportando l'attenzione all'accelerazione grafica 3D sotto Linux, sta riportando, diciamo, scusa, attenzione anche nel senso di sviluppo e via discorrendo, e la notizia... Quindi l'utilizzo di Linux, per esempio... in campo medico per cercare... No, si parla di videogiochi, perché quando cacchio. Si parla, esatto, quando si parla di soldi che girano per queste cose, sono sempre solo videogiochi. Sono due le cose, videogiochi, videogiochi e porno. Sì, ma qua l'accelerazione 3D non ti serve. Non serve. No. E peccato. Qual è la cosa che sta appunto catalizzando l'attenzione? È il fatto che hanno portato Steam su Linux. Steam, la piattaforma per, diciamo, lo store online per i videogiochi di Valve, che fino adesso girava sulle classiche piattaforme, ovvero sia Windows e Mac. Diciamo che da quando hanno cominciato a far girare Windows 8, hanno capito, esatto, che forse Valve ha cominciato a dire che guarda, però Linux non è male come piattaforma per giocare, portiamoci Valve. Adesso è già un po' di tempo che hanno cominciato la fase beta. Ci sono un tot di persone che sono riuscite a entrare per testarlo e ogni mese aumentano queste persone man mano, e la notizia è che appunto su Steam stanno cominciando ad aggiungere ai giochi anche i requisiti di sistema per Linux, per cui la cosa si fa sempre più interessante, perché anche molti giochi, anche indipendenti così, vengono portati su Linux appunto per poter essere inseriti in Steam e essere venduti anche sulla piattaforma. Ma l'unica nota che secondo me è un po' negativa è che comunque si tratta al 99% di software non libero, chiaramente. Chiaramente. Ok, però a proposito di giochi, io volevo ricordare che tu prima avevi parlato del nostro sito www.gl-como.it per le notizie di questa puntata, di tutte quelle vecchie. Ma io devo ricordare anche un'altra cosa a proposito di giochi. Dai, 12 fai questa marchetta, lo devo fare, mi tocca, vai. L'obolo, vai. Il 12 dicembre ci sarà una tappa, la prima tappa del Lampartin Tour del GL Como che vogliamo dirla tutta, non andrà da nessuna parte, però si chiama così, è sempre lì, esatto. È una tappa itinerante nello stesso posto, ebbene sì, e giocheremo con dei giochi ganzissimi a scelta, ovviamente, cioè, liberi, chiaro. E sul sito c'è la possibilità di votarli. Abbiamo provato ieri a giocare a dei giochi che, mamma mia. Ah sì? Sì. Ero già andato a casa io. Sì. Ok. Dopo il film. Ok, capisco. E comunque votate. Se siete in zona, venite. Mercoledì prossimo. Sì, mercoledì. Il 12-12. In Sala Noseda. Che abbiamo scelto? 12-12-2012. È troppo scaltro. In Sala Noseda a Como, per chi è in zona, il gruppo Linux su www.glcomo.it, gl-como.it, trovate tutte le informazioni del caso, come trovarci, come contattarci. Votate per quale gioco sarà giocato in questa prima tappa del LAN Party Tour 2012-2013, e soprattutto venite a giocare. Venite a giocare, a divertirvi, che ci saranno tanti premi e tanti gadget. Alla fine del tour, il vincitore, diciamo, del come torneo. Come minimo. Hai capito, no? Guarda, io direi che come minimo un'apparizione straordinaria in Opencast la farà il vincitore. Poco, assolutamente, ma sicuro, perché lo obblighiamo. Lo leghiamo. E che cazzo, cioè, voglio dire. E comunque su Linux si gioca. E direi che si gioca anche bene. Si gioca anche bene. Tra l'altro, a questo proposito, per chiudere questa parentesi di bene, di giochi, ho acquistato a fine del mese scorso l'Humble Bundle. Humblebundle.com è scioglilingua. È uno scioglilingua, ma è anche un insieme di giochi di sviluppatori indipendenti che vengono venduti a offerta, praticamente, senza DRM e disponibili su tutte le piattaforme. Ho capito, però dai, dillo quanto l'hai pagato. 20 euro. Sei stato onesto. 20 euro, mi hanno dato 6 giochi, se non sbaglio. Ah. Windows, Mac, Linux e Android, senza DRM. Cacchio. E non è male. E vi ricordo anche che, vi ricordo comunque, ve lo dico se non lo sapete, come quest'uomo che mi guarda con la faccia del pesce lesso, che è la mia, è la mia, non ho un pesce in faccia. Degli euro che decidete di pagare il pacchetto giochi, si può scegliere anche la percentuale che andrà agli sviluppatori, la percentuale che andrà, diciamo, ai gestori del sito per mantenere in piedi il progetto, e la percentuale che verrà devoluta in beneficenza. Per cui acquistando questi giochi farete del bene non solo agli sviluppatori, che anche loro poverini dovranno mangiare, ma anche a chi ha più bisogno, diciamo. Acquistate allora, ma da tutte le parti del mondo possono acquistarle? Assolutamente sì, non solo da Paderno Dugnano, per esempio. Allora, e a questo punto Red Sox, yeah. Perché mi piace finire una parte così, diciamo, positiva con Red Sox, che mi sembra giusto. Esatto, che canta Out of It, un disco che ci piace. Comunque, anche Brad Sachs, con tutti i suoi album molto pregevoli, lo trovate su Jamendo. Vi consiglio di fare un giro anche sul suo sito, dove troverete, tra le altre cose, anche i brass. Se avete questa, diciamo, necessità, urgenza. No, questo se vi piace, diciamo, remixare, ok? Remixa. Se vi piace giocare con la musica, i brani di Brass Axe, che sono comunque in Creative Commons, sul suo sito sono disponibili anche nei pacchettoni zip con le varie tracce audio separate, da cui potete trarre sample a piacimento. E noi prendere qualcosa di decente per questo programma, no, eh? Tipo? Non lo so, cioè, una base. Cambiare te e non voleva venire nessun altro. Capito? È così. Va bene, nel guarda frattempo... Guarda che io porto il pallone, i microfoni, per cui decido io. Ma se ce l'avevo a casa io. Nel frattempo, nel mondo derivate di Debian... Derivate di Debian, vediamo. Scusa, scusami, Debian. Nel mondo famose derivate di Debian... Ah, cacchio, stavo già pensando a cose stranissime. No, io. No. Ubuntu. Hanno aggiunto una fantastica funzionalità che non mancherà di piacere a tutti quanti. A tutti. Gli ipocondriaci. Tutti gli ipocondriaci troveranno fantastico questa lente, come si chiama, la Lens for Unity. Come voi saprete, in Unity hanno aggiunto questa funzionalità di ricerca globale. Diciamo che dopo Amazon, cosa hanno messo? E appunto stavo dicendo, la ricerca globale, dove cliccando su un bottone compare il box di ricerca, si scrive lì e il sistema cerca in diversi tipi di database, dalle applicazioni installate, i file su disco, Amazon, e hanno aggiunto praticamente la ricerca di articoli in campo medico, fondamentalmente. Medico, per esempio tu cerchi aspirina. E cosa e ti viene fuori? Compaiono articoli sull'argomento dell'aspirina, ma soprattutto anche aspirine. È assurda come cosa, veramente, ma questi non hanno niente da fare. È così. Però tu pensa, se tu sei, che ne so, un ipocondriaco. Esatto. Io sto pensando a una mia collega. Ecco, non diciamo nomi. No, vuoi la matricola? Antonia. Sì, simile. Antonio. Femminuccia però. E comunque va bene, lei non parla è confondibile tutti i giorni con i medici. Tu pensa, perché non avere un medico nel tuo computer? Ecco. E vabbè, invece un'altra derivata di Debian famosa, aspetta, no, ce l'ho sulla punta della lingua, quella che ultimamente ha avuto un successone, Ubuntu. No, quell'altra. Cacchio, stiamo parlando di Mageia. No, quello non era. Va bene, lascia perdere. C'ero quasi. Stiamo parlando di Linux Mint. Ah, la conosco. Bravo. È quella che usiamo per registrare. Stiamo usando per registrare. Per cui quando poi faremo il post sul sito del Gelecomo, ricordiamoci di aggiornare la scritta sotto, perché. Ok. Tanto più. Comunque, è uscita da Uscirà. Poco. È uscita da poco la 14. Ah, sì. Linux Mint 14, che si presenta con questo desktop. Aspetta, abbiamo una diapositiva. Aspetta un attimo. Che ti faccio vedere la diapositiva, la vado a recuperare. Attenzione, ecco la diapositiva. E questo avete visto, un classico desktop. Devo dire la verità. Il classico desktop di una Linux Mint con praticamente GNOME. Sì. Diciamo che è proprio base. No, ha fatto bene, nel senso. È una bella distro. Sì, è utilizzabilissima. Decisamente un desktop più comodo di Unity, fondamentalmente. Sì. Ok. Sì, non ti trova le aspirine. Diciamo. Non trova le aspirine. Questo è un problema. Potrebbe essere un problema. Ma secondo me anche Unity non ti dice che ce l'hai nell'armadietto in fondo dietro l'arma. Ecco. Ma sul tavolo vicino alla frutta. Sul tavolo a fianco alla frutta. Cosa succede? Che è quasi pronta, sta per uscire Linux Mint 14, ma con preinstallato KDE. Questa tecnologia proprio. KDE? Ma che KDE? Un KDE. 4.9.2. Tanto per dire. Sì, perché comunque è la versione derivata da Ubuntu, per cui credo che utilizzino i loro pacchettini. Vabbè, per cui andate, diciamo, tenete ad occhio, installate, testate, e poi fateci sapere, lasciateci un commento sul sito. Se volete seguirci, anche tanto per diventare un po' social, siamo anche su Identica. Siamo chi? Il GL Como. Ma veramente? Se siamo su Identica, il nome utente ovviamente è GL Como. Ma io ho preso l'aspirina. L'aspirina. Potete seguirci per restare in contatto, oppure per farci sapere se avete provato la Linux Mint con KDE, come vi siete trovati. Come vi siete trovati? Si voi sono chiamati. Di solito io mi chiamo, Mind. Mi trovo. Ma sempre? Sì, mi chiamo. Dove sei? Sono dove qui. Sei? Esatto. Tu per hai dire. Usato già KDE, vero? Sì, io ecco. Nasco su KDE. È quello forse che ti ha rovinato, no? Dico. No, ma ancora prima del 4, però. Ah, quindi, beh, diciamo, allora era già più utilizzabile. Vabbè. Per carità, massimo rispetto. Però non mi finisce di convincere. Parlando con uno che usa GNOME 3 e dice: no, no, è bellissimo. È bello. È bellissimo. Sarà bello te che usi Black Box ancora. Fluxbox. Scusa. Ah. Adesso quando passi a Mousetrap, quei desktop manager, quelli che non esistono, cioè desktop manager, window no, manager, infatti. Senza window, esatto. Cioè, senza finestre, poi mi saprai dire, come ti trovi bene, tu hai fatto tutti i tuoi bei comandini. Io uso XXX Term. Ecco. E sono felicissimo. Solo perché trovi il porno con quello. Yeah. Esattamente. No, cacchio. Allora, siamo arrivati a 35 minuti. Direi che diamo le ultime due, sì, le ultime due notizie abbastanza importanti. E poi chiuderei con un pezzo dell'ultimo album degli Hot Fiction. Il mio gruppo preferito. Per cui va bene. Uffa. Brano e porto album. Via i microfoni. Va bene. Brano. Brano e album che trovate anche questo su Giamendo, anche questo in Creative Commons. Le ultime notizie del Firefox. Firefox che ha aggiunto le social API. Esatto, allora che cosa succede? Fondamentalmente si sono inventate delle API JavaScript, ecco, per far sì per che i siti di social possano mostrare direttamente nel quello si chiama il Chrome, cioè nell'interfaccia di Firefox. Ah, ma è Chrome allora? No, si chiama Chrome l'interfaccia. Ho capito, ma così uno si confonde. Ma si chiama così, sono quelle come di diglielo a quelle di Google. Cioè. Quindi c'è un pezzo che si chiama Internet Explorer dentro. No, lascia perdere. Non capisco. Lascia stare. Allora, lascia stare. Nell'interfaccia di okay. Firefox di solito a fianco alla barra degli indirizzi. L'indirizzo perché è piccola, c'è pochi pixel, poco spazio. C'è questo bottoncino, ci sarà qualche questo stato dei, esatto, tipo il tuo nome utente, le ultime notifiche. Gianna ti ha appena mandato a cacare. Esattamente. Per cui, ovviamente, come quasi tutti i progetti social di Firefox inizialmente sono orientati a quei 1-2 social network. Poi qualche, diciamolo, Facebook e Twitter. Non poi, si capisce perché, ma Mozilla. Io ho un'idea, ce l'ho. Poi c'è qualche buon uomo invece che si mette a compilare per il resto. Ma non è tanto compilare, devi fare proprio, cioè il sito deve fare dalla parte sua, deve avere. Ok. Comunque queste social API al momento sono solo in Firefox 17, per cui l'ultima versione è uscita. E supportano solo Firefox, solo Facebook e Twitter. No, in questo caso solo Facebook. Solo Facebook. Perché la funzione, diciamo, per supportare diverse piattaforme uscirà nella 18, per cui nella prossima versione. Anche se andando a smanettare è possibile inserire supporto per altri siti, però ovviamente il sito dietro le quinte deve avere la possibilità di funzionare. Posso? Dimmi. Potevano cambiare invece che social app, Facebook API. Purtroppo cioè, capisci che, ma non è questa la cosa più interessante che hanno inserito e che inseriranno, ma bensì stanno inserendo supporto a WebRTC. Pensavo il bottone per spegnerlo. Quello c'è X nell'angolo. Ah, allora, c'è. WebRTC che cosa permette di fare? Fondamentalmente di fare comunicazioni in real time tra le applicazioni in JavaScript e il server che c'è dietro o via discorrendo. Cioè hanno fatto la possibilità già prima di fare le web app per utilizzare, diciamo, il motore di Firefox per creare applicazioni. Adesso hanno aggiunto anche il real time. Sì, è la stessa funzione che si usa su Chrome, che Chrome fondamentalmente già lo supporta, per fare ad esempio video chat, audio infatti, chat. Perché il problema grosso esatto. È audio e video. Esatto, serve per il trasferimento in tempo reale di dati. Esatto. Quasi reale di dati. Ci sarebbe anche una cosa, un'alternativa un po' diversa, non so, macchina controllo numerico, ma quelle sono altre cose. sai, anche lì hai bisogno di real time a manetta. Ma questo non è in quel senso. Questo è solo ed esclusivamente per far andare Skype dentro. No, è fondamentalmente il protocollo di trasferimento dati, esatto, che... per poter sincronizzare il tutto in modo che non ci sia un ritardo o scena. Esatto, fondamentalmente è quello. Ok. Effettivamente SIP, SIP serve soltanto per dire ti sto chiamando, poi i dati viaggiano su un canale RTC, per cui torniamo sempre lì. Ma la notizia, quella che, con cui vorremmo chiudere, una nota un po' anche triste, diciamo preoccupante direi, è che, come sappiamo tutti quanti, no, allora dobbiamo dare la notizia come è giusto, cioè, va data bene. Allora, Bruno Vespa ci mette 6 mesi a presentare un libro, noi possiamo metterci 2 secondi a dire che è uscito Windows 8. 1, 2, basta. Ma non è quello il nostro problema. Il nostro problema è che Windows 8... No, perché non è il nostro problema, perché fondamentalmente non lo usiamo. No, ma non è neanche quello il nostro problema. Cavolo, il nostro problema abbiamo? È che Microsoft ha lanciato questo nuovo... questa alternativa al BIOS, che si chiama Wi-Fi. Mamma mia. E che fondamentalmente incorpora... C'ho proprio... Guarda, vedo. Brivido. Incorpora questo Secure Boot. Cioè, fondamentalmente loro che cosa fanno? Se il software che viene avviato da video il computer non è firmato con una chiave di criptazione che solo Microsoft può darti, rilasciare. Esatto, e già lì mi chiedo perché, chi cazzo sono loro per deciderlo, il sistema si rifiuta di far avviare il sistema. Ora, alcuni costruttori inseriscono la possibilità nel BIOS di disattivare questo controllo, per cui si può decidere, l'utente può decidere di andare a disattivarlo. Il problema è che devi saperlo fare, perché altrimenti ti trovi che a Natale ti compri il computer nuovo, te lo porti a casa, ti installi il tuo bel Linux e col cazzo che parte. E quindi termine tecnico. Passerai i mesi, esatto, a cercare di capire. E non partirà perché? Mai. Perché? Hanno proposto alcune alternative. L'alternativa più brutta è quella che sta proponendo anche Linux Foundation, più che è quella vergognosa, fondamentalmente direi, quella di acquistare una chiave da usare. Perché diciamo le cose come stanno. Le chiavi non è che te le danno, te le regalano. Eh no. Tu devi pagare per avere una chiave. Esatto. Fondamentalmente si sono inventati un sistema per guadagnare soldi. Diciamo che dopo il Windows Store, esatto, stanno inventando soldi per fare un sistema per fare soldi su hardware non loro, cioè su robe che non sono loro a produrre e a vendere. Loro ci fanno soldi lo stesso, a prescindere se l'utente vuole o meno usare la funzionalità e vuole o meno utilizzare Windows 8. Per cui è così, ma la cosa ancora più preoccupante è che sarà difficile avviare, se non impossibile, avviare sistemi operativi alternativi. Per cui avrete una macchina che può far andare solo quello che uno che non è il costruttore della macchina e che non siete voi proprietari della macchina ha deciso che può girare sulla macchina. Fondamentalmente arriveremo a questo. E il problema è questo, è che tutti hanno detto: oh, che figata! E la cosa che ho letto ancora più interessante è che esiste un'implementazione, non mi ricordo di che costruttore, di questo sistema, che fondamentalmente permette l'avvio. Diciamo che il sistema operativo, quando si firma, inserisce anche c'è una stringa di descrizione col nome del sistema operativo, fondamentalmente. E questo alternativa al BIOS, con questo pacco, permette di avviare solo sistemi operativi firmati o non. Volendo si può disattivare la firma, però comunque avvia soltanto sistemi operativi che abbiano come nome o Microsoft Windows o Red Hat Enterprise. Esattamente. È un baco, però è un baco un po' ambiguo. Comunque, va bene. Allora, ragazzi, tenetevi stretti i vostri vecchi computer, perché non si sa mai. E soprattutto, se dovete acquistarne uno, state attenti. Controllate. State backward. Andate su internet a controllare la scheda madre che volete acquistare. Andate su internet a verificare il computer che volete acquistare. E se non potete fare nessuno di voi, fatevelo accendere dal negozio, dal venditore, perché acquistare una roba del genere è come comprare una macchina senza avere le chiavi, solo con l'autista, e dover essere costretti a pagare l'autista tutti i mesi. Fondamentalmente il concetto è quello. Esatto. E ad avere un autista che, tra l'altro, è pieno di malattie. Esatto. è proprio brutto. C'hai virus. Sporco, esatto, che sai, dice, dove la porto? Non è bello. E tra l'altro va a Trojan. Mamma mia, e signori, e su questa fantastica battuta chiuderei questa puntata di Opencast Alpha dopo i nostri canonici 44 minuti. Si è fatta una certa. Si è fatta una certa, e per cui vi salutiamo con questo ultimo brano, come dicevamo, del nuovo album degli Hot Fiction, dal titolo Body Barely Touching Mine. Body.